Unità 2. Grammatica. Traccia 14. Buongiorno. Buongiorno, mi dica. Vorrei cambiare dei dollari canadesi. È possibile? Certo, in euro immagino. Esattamente. Quanti dollari vuole cambiare? 100. Però volevo sapere prima quanto è il cambio oggi. Sì, un attimo solo che controllo. Allora, un dollaro canadese quotato 0,76 euro. Quindi sono circa 74 euro, perché ci sono poi le spese di commissione. Ho capito, va bene. Avrei bisogno di un suo documento, però. Ecco il mio passaporto. Grazie, aspetti che le compilo il modulo. Ecco, gentilmente mi metta la sua firma qui. Perfetto. Questi sono i soldi, 20, 40, 60, 70, 4 e 86 centesimi. Grazie. Prego.